La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpura, eccoci al nostro appuntamento settimanale con il cinema. Weekend con sei nuovi titoli, finita la buffata, la grande abbuffata di Natale, Capodanno, Epifania, che ha avuto i suoi vinti e i suoi vincitori. Tra i vincitori sicuramente, dobbiamo dire, film d'animazione che ha incassato di più nell'anno è diventato Frozen, quindi che ha anche superato Cattivissimo Me 2, quindi è diventato il film animato più visto in Italia in questa stagione. E per quanto riguarda invece quelle che sono le commedie e comunque il prodotto, diciamo, tipicamente natalizio, ci sono state sicuramente delle sorprese. È andato molto bene Lo Hobbit, ma questo si sapeva. È andato molto bene Un boss in salotto di Luca Miniero, che è stato nostro ospite nella scorsa puntata, che è partito veramente alla grande. Sta andando abbastanza bene anche Capitan Harlock. Se la cavano film di qualità e un po' da Oscar, come American Hustle e The Butler, insomma, come sempre un cinema molto variegato. Voglio sottolineare tra l'altro l'ottimo andamento di un film come Filomena di Stephen Frears, che ha quasi raggiunto 5 milioni di incasso. Insomma, è stato un Natale, pensiamo a Colpi di Fortuna per esempio di Neri Parenti, che ne ha superato i 10, insomma è stato un Natale a incassi alti. Questo sicuramente ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo del cinema italiano, dell'esercizio, della produzione, della distribuzione. Più 16% dicono le cifre, e quindi, come dire, ci lascia pensare che questo 2014 possa magari invertire un po' la tendenza. Scopriamo insieme se i film di questa settimana aiuteranno in queste imprese. Lo facciamo cominciando da un film che ci mette piuttosto in guardia. È un film forse più utile che bello, diciamo così, però racconta molto un'insidia dei nostri tempi, cioè quella dei cosiddetti social media, social network, media virtuali, Facebook, non tanto Twitter magari, ma la possibilità che la nostra vita in qualche modo e in tanti modi sia, come dire, presa, catturata, acchiappata e riutilizzata, magari a fini non propriamente olimpici, da qualcun altro, a nostra insaputa. Sono storie diverse quelle che si intrecciano nel film Disconnect di Henry Alex Rubin con Jason Bateman, Hope Davis, Frank Grillo. Storie diverse ma che poi intrecciano i propri figli. Sentiamo una clip tratta dal trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Che cazzo hai da guardare? Eccolo, l'ho trovato. Che gli scriviamo? Mi chiamo Jessica. Adoro la tua canzone che hai postato. L'ha ricevuto? Sì, sorride. Potresti non usarlo a tavola? Lui lo fa. Papà lavora. Chi è la tua ragazza? Voglio sapere perché la mia carta non funziona. Hai chiamato per questo? Deve esserci un errore. Tutto quello che fate, lui può vederlo. Può fare quello che vuole col vostro computer. Può accendere la vostra telecamera, può osservarvi. Non ci aiuterà mai nessuno. Troverò quell'uomo da solo. Insomma, già dal trailer emana una certa quantità di ansia. Chissà che molti di voi poi stasera non guarderanno molto bene di aver spento l'iPad o il computer. Ben ritrovato a Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Senti, un titolo che è quasi un imperativo, Disconnect, cioè sconnettetevi, insomma. Sì, mi sembra che il titolo denunci anche tutta la problematica del film, che sembra quasi un inno un po' moralistico e luddista contro tutto ciò che è tecnologia, soprattutto tecnologia sociale, dal telefono, smartphone, fino a qualsiasi altro strumento che possa servire a connettersi con gli altri. Infatti c'è il padre che sta sempre al telefono e non vede la figlia, c'è la donna che non capisce cosa succede in famiglia perché cerca l'amore online e così via. Insomma, tutta una serie di tipologie che secondo me diventano elencative, diventano in qualche modo solo una lista, una classifica dei pericoli a cui può portare la rete e affini, ma che poi non riesce in nessun modo ad approfondire nessuna di queste situazioni. E l'unica cosa buona, a mio parere, sono le performance degli attori, in particolare Grillo e Bateman, che secondo me sono di più alto livello rispetto agli altri. Come hai detto tu, è un film più utile che bello, sconta però una totale assenza di personalità come la tecnologia che ostentatamente, ostinatamente continua a inquadrare. Questo comunque è Disconnect, una delle proposte, delle nuove proposte di questo fine settimana al cinema. Noi, prima di parlare invece e poi di sentire anche il buon Paolo Virzì per il Capitale Umano, cominciamo a giocare perché abbiamo anche questa settimana un paio di tracce, di frammenti di un film che dovete indovinare per provare a vincerne il Blu-ray. Guarda, un regalo! Ah, è per te. Un puntino verde? Perché tutti i puntini verdi li becchi tu? Prendilo! Papà impazzirà per questo! Frullo gioca! Frullo gioca con il micio! E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo a larosapurpurea@radio24.it. Due Blu-ray in palio per i primi due ascoltatori che indovineranno il titolo di questo film, e più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Parliamo di cinema italiano, dicevamo, settimana con sei nuovi film, con due grandi nomi italiani a vario titolo, comunque di una commedia italiana più impegnata in un caso, più così diciamo di divertisman in un altro. Partiamo con Il Capitale Umano, che è probabilmente il film più importante della settimana. Adesso vedremo anche con Boris Sollazzo se è davvero riuscito, ovvero il ritorno di Paolo Virzì nei cinema italiani dopo la bella avventura, il suo primo anno alla guida del Festival di Torino. Paolo Virzì torna in sala, torna a un rapporto con i propri spettatori. Ci aveva abituato a raccontarci le storie della sua Toscana, di Roma, dell'Italia centrale. Si trasferisce in Brianza per raccontare appunto questo film con un cast di attori ben denso: Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Luigi Locascio, insomma un bel cast italiano. Allora, ascoltiamo questa clip e ne parliamo con Boris. Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale. Non so, nelle bozze ho provato a riferirmi anche a esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio. Raffaello Sanzio. Loro Amleto è del 1992, poi. Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla Prealpina. Veramente appassionati. Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no? Cosa apprezzo io, chiede il professor Russomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no? Boris, il teatro è morto, dice la critica aspra e asettica. Il cinema di Paolo Virzì su Imbrianza è vivo? È vivissimo, è forse il miglior cinema che abbiamo visto da Paolo Virzì, e dire che insomma è uno che ne ha sbagliati pochi di film, se non nessuno. Anzi, diciamo pure che tutte le polemiche che ha incontrato con Brianza e Affini danno ragione proprio a lui, perché la reazione che ha suscitato il suo film dà ragione a ciò che dice il suo film, che non parla ovviamente né demonizza una regione italiana, ma demonizza un certo modo di fare, un certo modo di considerare avido e arido il capitalismo italiano, e non solo, il capitale umano in generale. Il problema di questo film è che rischia di essere troppo un'analisi troppo profonda e sensibile di quello che siamo diventati, e può diventare urticante, può diventare molto difficile. A mio parere però non è solo il film della settimana, ma è il film più bello di Virzì e probabilmente sarà uno dei film italiani più belli dell'anno. Questo perché? Perché c'è una grande regia. Virzì secondo me non è mai stato così consapevole e bravo nel guardare il proprio cinema e nell'orchestrare fotografia, scenografia, la musica del fratello, e dall'altra parte c'è una capacità attoriale straordinaria. Tanti registi, attori in campo, e si vede su tutti Gifuni e Bentivoglio che formano una coppia allo stesso tempo tragica e comica di altissimo livello. Quindi veramente sul Capitale Umano non posso che dare il mio consiglio al 100%. Senti Giova, ci deve essere stato un problemino di comunicazione, capito? Non ho capito, scusa, cosa significa? Non è colpa mia, io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi, te lo dovevo dire, lo T'ho so. T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea. Sì, ma lo so, ma allora magari possiamo trovare un accordo tra di noi, no? Accordo cosa? Non capisco. A me cosa basta rientrare, andare pari patta, Giova. Tu mi ridai tutto il mio investimento iniziale, no? Poi quando il titolo cresce, perché cresce, no? Ma l'hai detto tu, che ti tieni tutto tu, Giova. Anche se vanno alle stelle, Dino, gli interessi. Dino, stai calmo, non funziona. Una roba tra me e te, Giova, in nome della nostra bellissima amicizia, dai, ci Dino, puoi stare, no? Non funziona così. Ma le norme del contratto te le ha lette o no? Sì. Dino, Guarda, se tu hai dichiarato il falso, sta roba qui si chiama frode. Frode addirittura, io a te poi, Giova. La Rosa Purpurea. E siamo ancora qui alla Rosa Purpurea, abbiamo parlato di Il Capitale Umano, adesso parliamo con il suo regista Paolo Virzì, intervistato da Boris Sollazzo, sentiamo. Non ti voglio tirare dentro un'interpretazione chissà quanto politica, però l'impressione è che più che Berlusconi, il berlusconismo, qui ci sia proprio invece quel capitalismo un po' ipocrita che compra i teatri e poi fa lo squalo, insomma quel capitalismo diciamo di sinistra, i capitalisti buoni che diceva qualche politico. Beh, è una stagione che probabilmente destinata a tramontare, però, perché evidentemente i risultati sono sotto gli occhi di tutti, c'è una realtà senza, di un mondo cosiddetto benestante senza futuro. Abbiamo girato nella Brianza, abbiamo scoperto che ci sono queste villettine costruite di nuovo vicino al centro commerciale in misura della ricca villa padronale, ma in versione microscopica e meschina, e ci sono dei borghi medievali abbandonati. Ecco, quindi vedi anche di come è stato usato il territorio, il patrimonio di conoscenze, di bellezza, di come è stato trasmesso, cioè abbiamo dato vita a una deturpazione della bellezza, grazie a questo modo di usare i quattrini, appunto da una parte con i fondi che promettono le leggendari guadagni in poco tempo, dall'altra con attività immobiliari screanzate, infatti non è un caso che un incontro tra un immobiliarista e un finanziere, insomma, che secondo me sono quelli che hanno rovinato l'Italia. Senti, chi te l'ha fatto fare di metterti tutti questi registi nel cast? Beh, era interessante perché era una bella sfida per me, cioè, avevo gente accorta davanti, non li potevo neanche troppo imbrogliare e non avevo mai avuto tanti registi sul set come stavolta. È stata sicuramente una sfida per me, che infatti ho cercato di dare del mio meglio, magari può darsi che qualche risultato di qualità in questo film sia venuto anche grazie al fatto che sentivo che avevo una forte sfida davanti. E allora questo era Paolo Virzì alla Rosa Purpurea per parlare di Capitale, Il Capitale Umano. Dicevamo prima un altro nome comunque importante, come volete mettetela, ma insomma il nome dei Vanzina nella commedia italiana è un nome che ha sicuramente segnato un tratto di storia del nostro cinema, di un cinema popolare, a volte anche un po' troppo se vogliamo, ma che sicuramente ha avuto il suo grande successo. L'ho avuto anche grazie a un film di qualche anno fa, che si chiamava Sapore di Mare, e che adesso trova il suo sequel, sì, forse in qualche modo, Sapore di Te. Siamo alla controrima, siamo a 20 anni dopo, agli anni 80, ma stessa spiaggia, stesso mare, sempre Forte dei Marmi, a fare da corollario al paesaggio umano dei Vanzina. E queste che so? Che so? E so mutande. Mutande, mi dici? E chi è sta zoccola? Io non sono una zoccola. La prego. Non mi franca il blu su. Mi aiuti. Che posso fare? Mi aiuta il Summer, sì. Che fai? Minacci. Io ti rovino. E io te gonfio. Che fai? Te gonfio. Io me ne vado. Allora Boris, com'è questa nuova incursione dei Vanzina dentro un territorio che Carlo conosce molto bene e che stavolta serve a raccontare quell'Italia degli anni Ottanta? Beh, è dolorosa per i fan di Sapore di Mare, perché Sapore di Mare era qualcosa di fresco, comico, romantico, con un cast azzeccatissimo e con un regista, uno sceneggiatore in palla e che probabilmente raccontavano anche qualcosa di sé. E qui tornano sul luogo del delitto forse un po' troppo tardi, raccontano degli anni che hanno vissuto quando ormai erano dall'altra parte della barricata, non erano più così giovani ed erano già autori, quindi forse avevano quelle malizie dei narratori che gli impedivano di cogliere la forza di quegli anni. Forse, a dirla tutta, c'è anche un cast non all'altezza rispetto a quello che c'era Il sapore di mare. L'impressione però è che i Vanzina siano sempre più anacronistici, cioè il loro modo di far commedia, il loro modo di essere romantici e sentimentali fanno parte di un'Italia che aveva più speranze, era più felice ed era anche, e in cui c'era anche più benessere. Forse tutto quell'ottimismo, tutta quella tenerezza adesso sembrano veramente fuori posto, quindi forse è veramente un problema del fatto che è cambiato più il paese dei Vanzina. E allora andiamo a sentire Enrico Vanzina raccontarci un po' qualche battuta della lavorazione di Sapore di Te. Enrico, un ritorno al passato o un ritorno al futuro, perché insomma il vostro futuro incontra il passato dell'Italia, com'è stato per voi al di là di quello che sarà per gli spettatori? Beh, insomma, noi abbiamo avuto l'idea di riproporre qualcosa di molto sentimentale, allo stesso tempo molto comico, in un momento difficile del paese, portare sullo schermo degli anni che comunque erano degli anni di ottimismo, in cui la gente pensava di migliorare, poi dopo non andare esattamente così, ma non importa. Arrivati a un certo punto molto avanti ormai della nostra carriera, ci faceva piacere riproporre qualcosa che piace a noi. Non molto sembra cambiato, se non forse proprio che è un'Italia meno romantica. Sì, e poi soprattutto nei nostri personaggi, anche quelli che sono, diciamo, quelli negativi del film, hanno comunque delle regole, dei piccoli codici sentimentali e codici di rapporti familiari, di rapporti, e questo si è perso, e anche lì credo che, però insomma, non è che noi stiamo con lo sguardo girato, perché la nostalgia va vista sempre in funzione di un futuro, per cui non a caso noi abbiamo finito il film oggi, per cui dando anche un giudizio in un certo senso sentimental morale sui nostri personaggi. E allora Enrico Vanzina, un'altra voce del cinema italiano qui alla Rosa Purpurea. Abbiamo ancora un minuto, Boris, per raccontare insomma il ritorno di due invece icone del cinema mondiale, internazionale, anche qui con vari gradi di qualità e di spessore, ma insomma Robert De Niro, Sylvester Stallone, quando si incontrano è sempre festa. Vediamo adesso se sarà stata festa anche per questo film, Il Grande Match, che è una sorta di toro scatenato contro Rocky. Certi atleti sono nemici giurati, ma la rivalità più accesa è stata quella fra due pugili, Razor e Kid. Hanno combattuto solo due volte, ma lo spareggio non si è mai tenuto. Oggi annuncio il mio ritiro dalla box professionistica. Una società vuole lo spareggio ufficiale, vi danno 100.000 ognuno. Non posso stare nella stessa stanza con lui, non ci sto. Che significa non ci sto? Guarda questa cavolo di casa! 30 anni! Sì! Rimettiti in forma. Scordatelo, sono un dinosauro. Ci divertiremo un'ultima volta. Sono il tuo allenatore. Non sei il mio allenatore, al massimo puoi averlo mangiato. Devi allenarti. Che ho fatto? Boris, quando il buon Sylvester Stallone aveva diretto qualche anno fa Rocky Balboa, aveva raccontato la decadenza di quello che fu un campione, l'aveva fatto però con un tono malinconico che aveva secondo me salvato il film. Mi sembra che questa cosa stavolta invece non succeda. Ma qui a salvare il film è prendere pienamente coscienza di che cosa il film è, cioè una baracconata trash. La fotografia di che cosa è il film secondo me è Alan Arkin, un attore straordinario che qui si accontenta oppure sceglie un personaggio che più volgare e demenziale non può essere, quasi più della baracconata di riportare due grandi campioni e icone della box cinematografica sullo schermo. Credo che Peter Segal abbia capito che l'unico modo per salvare il film fosse far capire quanto l'esperimento cinematografico fosse in sé trash e abbastanza folle, e c'è la giusta autoironia da parte di loro due. Se vi piace la comicità un po' grossier, può andare bene anche Il Grande Match. Certo che se non l'avessero fatto non ne avremmo sentito la mancanza. E comunque insomma vederli nello stesso perimetro di grande schermo fa sempre abbastanza piacere. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, siamo arrivati alla seconda clip del nostro game di oggi, sentiamo. Beh, non dovrebbe essere difficile, è una grande star, ora si trova a Parigi. Sì, telefono al dog sitter, tu prendi il passaporto di Blu. Oh, sì, una missione di salvataggio, vengo anch'io, così potrò darvi una mano. E allora, la Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che vi sveleremo la prossima settimana. E per quanto concerne invece il game della settimana scorsa, noi avevamo giocato così. Gli agnelli hanno smesso di gridare. Non cercare di rintracciarmi. Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Beh, questa era la seconda clip e ovviamente vi avevamo regalato, diciamo così, proprio la risposta dagli Agnelli all'amico per cena. Però insomma, era il senso degli innocenti, boom di partecipazioni sulla puntata della scorsa settimana, perché ovviamente è un film che molti hanno nelle orecchie, ancora prima che negli occhi magari, e vittoriosi del Blu-ray, perché l'escamotage è stato proprio l'uscita in Blu-ray del Silenzio degli Innocenti. Michele Spettoli di Porto Maggiore, provincia di Ferrara, e Alessandro Zimei di Pisa saranno loro a ricevere una copia in Blu-ray del Silenzio degli Innocenti, della quale parliamo con gli amici di Fil TV, con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un bel ritrovato. Sì, Il silenzio degli innocenti, uno dei film più importanti degli anni 90, esce finalmente in Blu-ray anche in Italia 4 anni dopo l'uscita statunitense, ed è un'edizione da avere assolutamente, data l'importanza del titolo, anche se purtroppo il video presenta numerose imperfezioni. Gli extra però fortunatamente sono copiosi, ci sono ben 6 documentari d'approfondimento, scene tagliate, outtakes, un messaggio telefonico di Anthony Hopkins e trailer. E quindi questo il menu del Blu-ray del Silenzio degli Innocenti. Parliamo invece di segnalazioni, Giulio, che arrivano dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Quando abbiamo guardato insieme i palinsesti, sempre molto ricchi di proposte cinematografiche importanti, mi è caduto subito l'occhio su questo film di Sam Mendes con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, un film di non molti anni fa, del 2008, che si intitolava Revolutionary Road, che adesso passa su Canale 5 alle 23:10, un bel affresco ambientato negli anni 50 ma ancora molto molto attuale, di disgregazione della coppia e del sogno americano. Mercoledì su Canale 5 alle 23:10 Revolutionary Road, tratto dall'omonimo romanzo di Richard Yates, che è una pietra angolare, anche se riconosciuta tardivamente, della letteratura americana, e che da noi uscì come in una prima edizione con il titolo I non conformisti. Il film di Mendes è un'analisi chirurgica dietro la patina del vivere borghese americano degli anni 50, tra colletti bianchi, villette, sorrisi e sogni infranti. Un film davvero dolorosissimo, dietro la fotografia ocra di Roger Dickens e con due attori straordinari, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che si ritrovano 11 anni dopo Titanic. E allora, grazie a Giulio San Giorgio e gli amici di Fil TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della nostra sigla ci raccontano che siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea. Allora io vi do appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.